Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Hikikomori in Giappone è una parola che spaventa e che vuole essere tenuta lontana, come una malattia incurabile che colpisce senza motivo e quando arriva contagia lentamente tutta la famiglia, rovinandone l'esistenza. Il termine fu coniato negli anni Ottanta in riferimento a un numero sempre crescente di giovani, i quali, per motivi spesso legati ad una forma di apatia scolastica, interrompevano le comunicazioni con il mondo sociale e si ritiravano nella propria stanza, rimanendovi ininterrottamente per lunghi periodi. Per codificare parametri nella definizione dello stato di hikikomori fu indicato un periodo di ritiro minimo di 6 mesi, ma fu sempre più evidente che questo lasso di tempo si protraeva spesso anche per molti anni. I dati ufficiali riportano che gli adolescenti che in Giappone praticano hikikomori sono attualmente più di 1 milione, vale a dire il 2% dei giovani e l'1% dell'intera popolazione, di cui oltre il 90% di sesso maschile, di estrazione sociale solitamente medio-alta, vale a dire il padre laureato con posizione dirigenziale e la madre anch'essa laureata, quasi sempre casalinga. Vi ricordate? Noi parlammo di hikikomori a questo microfono, ma una cosa come 7 anni fa, mi ricordo. La gente ci guardava stralunata dicendo: ma cosa ci racconti? Cosa ti sei inventato? A me era venuta l'ispirazione perché avevo un figlio appassionato, allora era poco più che un bambino, di cose giapponesi, mi faceva vedere dei manga in cui raccontavano le storie di questi ragazzi che si chiudevano in camera e scambiavano il giorno con la notte. Di giorno dormivano, la notte stavano sul computer, davanti alla televisione a guardare i manga, insomma, avevano completamente rivoltato la loro esistenza. Sono passati 7-8 anni e ancora se ne parla di hikikomori. Anzi, questa mattina mi sembra proprio la puntata giusta, l'avevo programmata prima ancora che uscissero le notizie di WikiLeaks rispetto il grande spauracchio della contemporaneità. Gli oggetti con i quali avevamo un rapporto più affabile, più confidenziale, il nostro smartphone, il nostro televisore, il nostro computer, in realtà sono degli oggetti che non ci servono a gettare un occhio verso il mondo, come appunto l'hikikomori fa in maniera quasi patologica. Chiuso in camera, rifiuta il contatto con la società, con la famiglia. Per lui il mondo è quello che gli trapela attraverso le macchine per comunicare. Beh, invece sono gli oggetti che in realtà trasformano noi nello spettacolo verso il mondo, non in maniera volontaria, non attraverso la voglia di segnalare la propria esistenza attraverso i social network, non la voglia di crearsi dei piccoli network individuali attraverso YouTube, ma semplicemente spiandoci, guardando i nostri momenti intimi, guardando noi che guardiamo. Immaginate ogni momento di voi che guardate, in ogni momento del giorno e della notte, quanto voi potreste essere imbarazzante spettacolo per chi volesse filmarvi. Immaginate allo stesso momento il vostro smartphone appoggiato sul comodino di camera vostra, immaginate il vostro televisore acceso su voi che lo guardate. Ecco, immaginate che incubo può essere rappresentato dal fatto, se realmente ci fosse certezza del fatto, e questi sono strumenti a doppio senso che possono essere usati da altri per guardare voi. Beh, di questo probabilmente il hikikomori non si preoccupa, perché per lui quelli sono gli unici legami con l'esistenza, perché l'hikikomori è una persona che non ha più importanza per lui, per cui non ha più importanza per lui cosa sia il mondo creato da esseri umani. Per lui il mondo sono soltanto le 4 pareti invisibili della propria camera che vengono attraversate dagli strumenti che ha a comunicare con il mondo attraverso la rete. 800240024, sono passati tanti anni. Cosa ne sapete di più voi degli hikikomori? E quante persone nella vostra sfera familiare, degli amici, le persone che voi conoscete, hanno un piede già dentro in questa realtà che potrebbe essere il destino ultimo di un'umanità che vive perennemente connessa? A tra poco. Axerta. Indaga. Documenta. Accerta. www.axerta.it. Vi presento Melog. Cronache meridiane. Quello? Io lavoro qui da 2 anni e non ho ancora sentito la sua voce. Non mi ha mai parlato. Strano, non sembra. Da quanto lavori in questo negozio? 3 anni. E non ti sei ancora presentato a questa bella ragazza? No. Eppure sarebbe carino. Dicono un gran bene di lui. .800 24 0024, ricordo quando ne parlai 7 anni fa, la gente ascoltava stupefatta, come se parlasse qualcosa che non apparteneva, non sarebbe mai appartenuto alla realtà del nostro paese. Cristina, buongiorno. Buongiorno, buongiorno Gianluca. È una realtà molto diversa dalla realtà che tu conosci, il fenomeno del Kikomori? Allora, io ho conosciuto questa realtà in quanto mio figlio ha avuto questa esperienza. Posso parlare come mamma di un ragazzo che adesso è uscito, quindi posso raccontare una storia dall'inizio alla fine. Quello che so è che è un momento molto doloroso, un momento che interrompe la crescita di un adolescente, molto doloroso per la famiglia, per chi sta attorno e per lui soprattutto. Ecco, qual è la prima differenza rispetto a un normale adolescente che passa la giornata con gli occhi infilati nel suo smartphone? Non lo considero un comportamento? Lo posso dire serenamente adesso, perché lui passa ancora gli occhi sullo smartphone, ma ha l'attenzione all'esterno, è collegato con gli amici, è collegato col mondo, è collegato con la vita, con le feste, con il divertimento, mentre prima era collegato e rivolto a un mondo virtuale, assolutamente non connesso con la propria esistenza fisica. Ecco, dimmi com'è stato, diciamo, l'escalation di questa uscita dalla realtà sociale di tuo figlio. Io quello che posso dire è che ho iniziato a notare che era timido, che non si relazionava con i suoi compagni, che non reagiva quando lo invitavano alle feste, cercava di non andare. Però questo diciamo, è un fenomeno abbastanza diffuso, non è un atteggiamento necessariamente sempre patologico. Però quando vedi che tuo figlio sta in casa tutte quelle ore, poi inizia a invertire il sonno con la veglia, cioè dormire di giorno e star sveglio la notte. Ma a scuola non ci andava? E a un certo punto ha smesso di andare a scuola, in quanto inizialmente ha cercato di arrivare in ritardo, di non andare così, noi abbiamo insistito il più possibile, poi a un certo punto non è stato più possibile contenere questo desiderio di stare nel suo mondo, nella sua stanza. E quando stava chiuso in camera cosa faceva? Tu riuscivi a entrare a vedere cosa faceva? Entrare no, riuscivo a sentire. Ah, non ti faceva entrare, era chiuso proprio dentro. Era molto difficile, insomma. Quindi era proprio, diciamo, la caratteristica chiave classica rappresentata anche dalla letteratura, dalla narrativa proprio del Giappone. Cioè, il ragazzo a un certo punto sigilla la porta di camera sua e nessuno può entrare. Nessuno può entrare, persiane chiuse, esattamente come nella letteratura giapponese, veglia notturna, chat, ecco, io sentivo che comunque parlava con degli amici. Quindi con qualcuno si relazionava? Assolutamente sì. Ma erano altri Kikomori come lui? Chi lo sa, non lo so. Comunque con altri ragazzi con cui simulava una vita, insomma, parallela, ecco. Sentiamo Lorenzo, resta in ascolto Cristina, perché continueremo. Sì, ciao. Lorenzo, buongiorno. Sì, buongiorno. Mi hai aperto un mondo, perché io da youtuber famoso quale sono ho veramente tantissimi di questi che tu chiami Kikomori, che poi in realtà in Italia si chiamano troll, si chiamano. Questi sono troll. Ma il troll è un'altra cosa, però. Scusa, facciamo così. È un'altra cosa, perché ti spiego, perché molti di questi troll in Italia si chiamano troll. Ma in tutto il mondo, il troll è una persona che vive in rete per infastidire e attaccarsi ovunque, esatto, può esistere. Però molti di questi troll, se li vai a vedere, hanno nomi che si rifanno al Giappone, videogiochi, compagnia varia. Non è un caso, è gente che comunque, come tu stai descrivendo questi Kikomori, passano la loro esistenza in una stanzetta a dare fastidio, ma non danno solo fastidio, comunque stanno lì, chattano fra di loro, fanno comunella, e non sono solo ragazzini, sono anche tanti gente laureata che quando ha finito la laurea non ha più uno sbocco perché magari non ha trovato un'occupazione e passa la vita in questa stanzetta, io la chiamo stanzetta efebica. Ma ferma un attimo, Lorenzo, non te muovere, resta lì perché mi interessa. Allora, Marco Crepaldi, buongiorno. Buongiorno. Allora, Marco Crepaldi è un esperto di questa materia, ha fondato un sito di cui amministratore, chicomoriitalia.it, gestisce anche un gruppo Facebook di genitori, un gruppo chiuso, provate a iscrivermi, ancora non mi hanno accettato, spero mi accetteranno perché mi interessa, in cui, diciamo, tu da qualche anno stai studiando proprio dal punto di vista sociale questo fenomeno. Ti faccio subito la domanda a bruciapelo, sì. Sei d'accordo con quello che dice Lorenzo, che mette in collisione il troll, il Fahrenheit 51 preso in giro, creato il personaggio creato da Crozza, adesso non so esattamente se questo è il numero, però è esattamente è la stessa cosa il troll e l'hikikomori? No, assolutamente, sono due cose diverse. Questo è uno dei problemi principali dell'hikikomori, ovvero che viene spesso scambiato con altri fenomeni che non c'entrano niente, viene scambiato con il fenomeno. Scusa, Napalm 51, ho fatto un po' di confusione. Napalm 51, che è diciamo il fissato della rete, zitellone che sta lì. Non mi sembra proprio esattamente la stessa cosa. No, assolutamente. Pensa che quando è esploso in Giappone il fenomeno degli hikikomori, perché arriva da lì, i computer non erano ancora diffusi, neanche gli smartphone. Quindi non esistevano, nemmeno i social esistevano ancora. Non esistevano ancora, è un qualcosa che viene prima. È ovvio che un ragazzo che passa tanto tempo in casa poi finisce per comunque usare il computer come unico mezzo per comunicare con l'esterno, però quello che ripeto spesso sul mio sito, sul mio blog, sulla pagina Facebook è che il computer è una conseguenza, non una causa dell'hikikomori, quindi un ragazzo che sta isolato usa il computer, usa la chat, cerca di relazionarsi, perché è vero, comunque questi ragazzi in fondo sentono il bisogno di parlare con altre persone. Cioè, in un'altra epoca avrebbe guardato dietro una siepe come leopardi, comunque, per stare isolato. Esatto, per certi versi il computer è una possibilità anche di agganciare questi ragazzi. Infatti, da quando ho aperto il blog, ho visto che c'è tantissimo interesse anche per conoscersi. Nel forum del blog, per esempio, ci sono tantissime storie di ragazzi che si raccontano e che allo stesso tempo cercano di mettersi in contatto tra di loro. Nella chat ci sono più di 40 ragazzi attivi che discutono anche di queste cose, che parlano della propria esperienza, quindi c'è comunque un'esigenza di... Diciamo che nel mondo del Giappone, io ho visto alcuni manga, alcune anime che mi ha fatto vedere mio figlio a suo tempo, accanto al hikikomori molte volte c'è una figura quasi di salvatore, che è un altro ragazzo, spesso una ragazza, che lentamente lo tira fuori da questa condizione. Come si chiama? Rappresenti te questa figura? No, quello di cui tu parli si chiamano Rental Sister. Ecco, esattamente, sì. È una cura giapponese che viene usata appunto per agganciare questi ragazzi direttamente a casa loro. Quindi questa ragazza in prestito, che è la traduzione letterale di Rental Sister, va a casa del ragazzo che non esce mai neanche dalla sua camera, perché in Giappone spesso il fenomeno è molto più marcato che in Italia. Sì, sono proprio sigillati. Non... Sì, in Italia spesso si mantiene comunque un rapporto con la famiglia, con i genitori, mentre in Giappone quasi sempre i ragazzi sono isolati anche all'interno della propria casa, quindi questa ragazza va e inizia a parlare loro da dietro la porta chiusa, quindi cerca di convincerli a uscire e a entrare in una delle comunità che sempre più spesso nascono in Giappone, quindi delle comunità proprio dedicate a questi ragazzi, dove lentamente vengono reinseriti nella vita sociale attraverso dei lavori, e quindi è un metodo che comunque è sempre più diffuso in Giappone, quello di utilizzare queste figure e anche ragazzi giovani. Però in Italia diciamo che questo non c'è ancora. Oggi è spesso lo psicologo che deve andare a parlare da dietro la porta e non è sempre facile. Comunque non c'è ancora una rete di aiuti come può esserci in Giappone, dove il fenomeno è ormai diffuso da 20 anni e se ne si parla decisamente di più che in Italia. Allora, torniamo un attimo a Cristina, la mamma che ci aveva cominciato a raccontare la sua storia, così seguiamo sempre il filo di un'esperienza diretta. Lei, Cristina, quando ha avuto la percezione che suo figlio non era semplicemente un ragazzo un po' timido, che non aveva voglia di andare a scuola, lievemente asociale, così, ma aveva proprio qualcosa che era riconducibile a una cultura molto diversa dalla nostra, quando ha sentito per la prima volta il termine hikikomori? Ma io me ne sono accorta un po' prima che si ritirasse definitivamente da scuola. Qualche mese prima, diciamo 6 mesi prima, all'età di 15 anni appena compiuti o da compiere, ho capito che c'era assolutamente qualcosa che non andava, e a quel punto io ho cercato di leggere, di informarmi, ho tentato di prevenire quella che mi sembrava l'esito che, a cui lui tendeva, cioè il ritiro completo, ho cercato di prevenire, non ci sono riuscita. Ecco, comunque qualche mese prima ho capito che non era una normale timidezza, ma che era qualcosa di più. Qual è stato, diciamo, l'apoteosi, il momento di maggior distacco? Come avveniva? Quando proprio lui era hikikomori al 100%? Come comunicavate? Beh, no, comunicavamo, veniva, certo, veniva a mangiare. Ah, usciva da camera per mangiare, sì. Sì, veniva a mangiare, ma 30 secondi, cioè non accettava nessun discorso, nessuna domanda, niente, poi spariva di nuovo immediatamente, da impazzire per un genitore, soprattutto i weekend, soprattutto quando capisci di avere un figlio e non poterlo vedere interagire né con te né con il mondo. Cioè, è sempre chiuso in camera davanti a un computer o a un televisore? Sempre, sempre. Di giorno dormire, ma che poi a un certo punto iniziare a svegliarsi e andare avanti così fino alla notte. Sentiamo, per proprio concludere, una battuta a Lorenzo che aveva sottoposto questa sua ipotesi. Che... È molto interessante quello che hai detto. No, io ti dico... ho imparato tante cose, ti dico che comunque molti di questi troll forti, storici, si rifanno anche a nomi giapponesi. Vabbè, questa è una cultura che ormai è dilagante. Io te lo dico, è una cosa, egoisticamente ti dico, da youtuber famoso, io non voglio farmi pubblicità. Ma tu sei un youtuber famoso, scusa, sì, mi mancava questo dato. Guarda, io ti ho chiamato a nome mio personale, quindi mi è piaciuto. Ma chi sei? No, dimmelo così lo diciamo al mondo. Sono Benedetto, sono quello che fa i video dalla Germania, paragone prezzi Italia, così. Sì, vabbè, è un mondo che, sì, confesso la mia ignoranza, non ho strumenti, però bravo, immagino... Bravo, è meglio che ci stai lontano, però no, vabbè, ormai generazionalmente non mi appartiene. Egoisticamente ti dico una cosa, Nicoletti, che questa gente a me personalmente mi fa un favore, perché questi ragazzi che poi alla fine stanno tutto il giorno attaccati a computer... Sono il tuo sono pubblico. Sono quelli che poi guardano i miei video, li spammano, li commento. A me dispiace perché molti di questi so... che vivono una vita praticamente in una stanzetta, distaccati dal mondo. Difatti ogni tanto li martello, c'è il fenomeno del trollaggio di questi ragazzi che comunque stanno chiusi fortemente nelle loro stanze. Per me è un fenomeno negativo. Va bene che mi puoi guardare i video la sera, ma passare la vita chiuso e uscire a mangiare, ed è un fenomeno fortemente in crescita. Ma non solo. Mi dici una cosa però, Lorenzo, dal tuo osservatorio, che sei un osservatorio privilegiato, perché tu avrai immediata visibilità del tuo pubblico, li vedi da quanti click ti fanno, dai commenti. Quindi, io ho milioni di visualizzazioni. Quindi diciamo, tu hai un osservatorio grandissimo, vorrebbe avercele a TV pubblica un milione di ragazzi sott'occhio da poter monitorare. Quanto è diffuso nel nostro paese questo fenomeno dell'isolamento totale dalla famiglia? È diffuso tantissimo, perché io ti dico, guarda, è in crescita specialmente nei giovani che secondo me hanno fatto degli studi e poi non riescono a trovare uno spocco lavorativo, quindi si chiudono in una stanza e si incattiviscono. Senti, perché... Lorenzo, mi puoi dedicare qualche altro minuto dopo la pubblicità, perché visto che sei tu che ci hai cercato e mi dai un'occasione di avere un osservatorio che normalmente è difficile trovare, ti chiederò qualche altra cosa su queste persone. Fermiamoci un attimo, riprendiamo tra un istante. 800240024. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. Hai tra i 18 e i 35 anni? Raccontaci la tua Europa e viaggia fino a Strasburgo. Con Radio 24 e l'Ufficio di Informazione del Parlamento Europeo a Milano puoi aggiudicarti un viaggio studio all'Europarlamento. Fino al 13 maggio ascolta Giovani Talenti e scopri la parola chiave settimanale con cui partecipare. Inviaci il tuo racconto sull'Europa che hai vissuto o che vivrai per studio, stage o lavoro. I migliori partiranno per Strasburgo. Sono Sergio Nava. Vi aspetto ogni sabato alle 13.30 con Giovani Talenti. Tutte le info su radio24.it. Melog. Cronache meridiane. È singolare che i hikikomori non si verifichi in famiglie divorziate o separate e neppure in casi in cui il padre è Tanshin Funin, ma in normali regolari contesti familiari. Chi pratica i hikikomori è figlio unico oppure è il figlio maschio maggiore, il quale tradizionalmente è investito di maggiori responsabilità. Primo caso, giovane, 24 anni. Già dall'adolescenza aveva dimostrato di essere timido, problematico e nervoso. Alle scuole superiori una compagna di classe si lamentò del suo cattivo odore. Come risultato, diventò paranoico rispetto all'odore del suo corpo e cominciò ad avere difficoltà con la scuola, che dopo un anno abbandonò. Dopodiché, seppur con molte difficoltà interpersonali, si cimentò in molti lavori che regolarmente lasciava dopo un mese. Cominciò così gradualmente a ritirarsi dalle attività sociali. Trascorreva tutto il tempo nella sua stanza. Smise di aver paura del suo odore, ma si sviluppò in lui la patologia di misofobia e divenne evidente la sua compulsione a lavarsi. Questo stato di ritiro sociale durò per oltre 4 anni. 800 24 0024, leggo qualche sms. Ricordo che quest'antina parliamo degli hikikomori, che è un fenomeno abbastanza antico nella percezione generale delle complessità legate a atteggiamenti compulsivi nei confronti della rete, dei sistemi di comunicazione elettronici. È abbastanza nuovo nel nostro paese, se ne è un po' parlato, noi ne parlammo veramente tanti anni fa come un fenomeno sociale emergente in Giappone, di cui non c'era testimonianza in Italia. Poi gradualmente in Italia se ne è cominciato a parlare, poi improvvisamente non se ne è parlato più, e oggi riprendiamo delle persone che stanno analizzando il fenomeno in Italia, che è un fenomeno sociale importante. La reazione del pubblico degli sms, che diciamo che è la fetta che reagisce più di pancia, ormai è un feedback che conosco bene, a parte quelli che continuano a dirmi che oggi è festa della donna quindi dovrei festeggiare anch'io, ma è sempre questa la fissazione di un nostro ascoltatore, dando delle soluzioni semplici: basta staccare la rete e finisce il problema. Staccare la rete, ma le leggete oggi i giornali? La rete ormai fa parte della nostra vita essenziale, la nostra esistenza. Oggi il terrore che serpeggia nell'umanità interconnessa, che anche il televisore, l'innocente televisore che usate magari per guardare l'Isola dei Famosi, vi possa guardare e osservare, che qualcuno possa operare dall'altra parte. Non date soluzioni così banali, come dicessi, come fate a dimagrire, staccate la corrente elettrica così il frigorifero si spegne. Non può più essere questa la soluzione. Ritorno a Cristina, che è la mamma di un ragazzo italiano hikikomori, ci sta raccontando l'iter della sua esperienza. Continua a dire, chiamate, date dei segnali, 800 24 0024. Non credo che nessuna delle famiglie che sono in ascolto non sia stata comunque lambita dal sospetto che possa esistere in casa questo problema. Cristina, dicevo, il momento apicale nella sua famiglia è stato quando il figlio improvvisamente ha ridotto al minimo i rapporti con voi. Allora, un momento apicale, diciamo, era molto annunciato. Il momento apicale per noi è quando ha smesso di andare a scuola, certo, lì era chiaro che bisognava intervenire. Come avete giustificato con la scuola che non andava più il ragazzo? In realtà non aveva nessuna malattia, almeno certificabile. Nessuna malattia certificabile, però sicuramente degli stati di ansia e di panico che si verificavano realmente quando ancora andava a scuola. Non era facile farlo entrare, cioè era colto da attacchi di panico, attacchi di ansia, cercava di non scendere dalla macchina, cercava di fare in ogni modo per non affrontare la realtà sociale che lo angosciava. Quindi ho cercato di fare. È figlio unico, risponde, diciamo, alla statistica giapponese. Sì, è figlio unico. Quindi corrisponde, diciamo, al quadro che è stato esposto. In questo caso corrisponde alla statistica di riferimento, sì. Allora, Marco Crepaldi, che ricordo che è amministratore di hikikomoriitalia.it, è una persona che da anni sta studiando questo fenomeno sociale. Ripeto, oggi non ci interessa da un punto di vista patologico, non è una trasmissione dedicata a una malattia, a uno stato di malessere. Voglio capire come socialmente questa condizione di essere si innesca in comportamenti che apparentemente possono sembrare più usuali e più normali. Mi dai un quadro dell'hikikomori italiano, da quello che è il tuo osservatorio? Più o meno una tipologia? Sì, allora, innanzitutto volevo sottolineare che qui non stiamo parlando di dipendenti da internet, ma di ragazzi che non escono di casa, che hanno difficoltà a socializzare, ad entrare nella società. Che il primo sintomo è proprio quello, diciamo. Esatto, perché altrimenti si fa confusione, perché la dipendenza da internet va trattata in un certo modo ed è un certo tipo di patologia, mentre l'hikikomori oggi e in Giappone, per esempio, non è riconosciuta come una patologia. È semplicemente, diciamo, una scelta dettata da una paura, una grande paura di relazionarsi. È un malessere sociale, non è... Esatto. Non c'è la cura medica per l'ichicomore? No, non c'è una cura medica, il fatto di staccare internet non risolve niente, tutti i genitori su questo sono d'accordissimo, hanno provato ottenendo sempre reazioni spesso comunque contrarie a quelle che si aspettavano. Il ragazzo comunque non esce di casa, comunque perde qualunque contatto col mondo esterno. L'ichicomore italiano, il quadro dell'ichicomore italiano è appunto diverso da quello giapponese perché mantiene un maggiore rapporto con i genitori, quindi in casa si riesce comunque ad avere un contatto con questo ragazzo. Anche perché noi abbiamo una società più empatica da questo punto di vista, non c'è quel formalismo che a noi sembra settico tipico della società giapponese. La mamma italiana non molla, prima che lascia l'osso e toglie le zanne dal collo del figlio ce ne vuole, quindi lo tiene più sott'occhio, diciamo. Esatto, sì, in Giappone è anche più una vergogna avere un figlio in questo stato, quindi le famiglie spesso non si rivolgono neanche ai professionisti per paura di essere giudicate, quindi c'è molto più silenzio. Invece in Italia è anche vero che è una stessa forma di isolamento, ma che ha delle sfumature diverse. I numeri sono anche diversi, perché in Giappone parliamo di più di 500.000 casi accertati, ma comunque le stime variano. In Italia invece si parla dai 30.000 ai 100.000 casi, non c'è ancora stato un censimento vero e proprio, perché appunto c'è ancora una difficoltà a priori di stabilire cosa sia realmente l'ichicomori anche tra gli stessi addetti ai lavori. Quindi chi se ne occupa degli ichicomori? Cioè c'è qualcuno che fa degli studi approfonditi, a parte te che il tuo interesse di tipo sociale, ma c'è chi anche li vede sotto un punto di vista di possibile recupero a una vita sociale queste persone? Sì, sì, ci stanno nascendo i primi centri, a Milano soprattutto, però è un qualcosa ancora di molto lento. Le analisi cliniche, le storie cliniche sono ancora molto poche per dare un dato certo. Quelli che contattano te, diciamo la piccola comunità di ichicomori, sì, che in qualche maniera fanno riferimento a te, come reagiscono? Hanno consapevolezza di essere ichicomori o è qualcosa che per loro non appartiene alla loro realtà? No, no, assolutamente, sono ragazzi molto lucidi, molto, molto intelligenti, con una grande sensibilità e quindi hanno piena consapevolezza della loro situazione. Alcuni la vogliono cambiare, altri invece dicono che stanno bene così e non vogliono nessun tipo d'aiuto, non capiscono perché i genitori si sforzano per aiutarli, semplicemente vogliono essere lasciati in pace. Quindi c'è anche questa un po' dicotomia tra chi... Anche perché loro nella loro esistenza hanno trovato il maggior conforto possibile, maggior attenuazione del loro malessere sociale. Lì tutto sommato nella loro camera hanno dei punti di riferimento e stanno bene. Volevo sentire una battuta da parte di Lorenzo, che adesso mi sono documentato, il 46enne Lorenzo Lambrughi, nome d'arte Lambrenedetto XVI, che è un famoso youtuber che soprattutto specializzato, vedi, mi sono documentato, nel fare una collazione, un confronto fra i prezzi in altri paesi, soprattutto in Germania, e i prezzi in Italia. Va nei supermercati, fa vedere che lì l'acqua minerale costa meno, i prodotti costano meno e noi paghiamo di più. Mi sono documentato in maniera giusta, Lorenzo? Sì, poi vabbè, dopo nel corso degli anni ho fatto video dalla Transiberiana, dalla Russia all'Albania, cioè quei confronti lì li ho portati poi a scala... Vabbè, è una tua specializzazione, diciamo, sei sì, una persona che sì, si muove in un terreno ancora di frontiera, ma già sta intravedendo quello che sarà il futuro di tutto quello che oggi chiamiamo televisione, via dicendo. Io seguo molto questo discorso, poi i dati che lui ha detto, di questo ragazzo di 30.000, 100.000 ragazzi che si chiudono nella stanza, è un dato veritiero e secondo me in futuro aumenterà. Ti dico, umanamente mi dispiace vedere gente che si chiude tutto il giorno in una stanza, però egoisticamente questi fanno parte del mio pubblico perché sono... Ecco, ma secondo te, Lorenzo, vediamolo un po' in prospettiva, tu quello che stai facendo te un domani diventerà un discorso di broadcast generale, perché non esisteranno più le RAI, le Mediaset. Guarda, ho fatto proprio un video ieri, che poi vabbè, noi siamo comunque collegati anche sui grandi siti di blogger, sono tutti amici miei che poi l'hanno condiviso. Parlavo proprio di questo, il fatto che un domani, fra 10-15 anni, la televisione verrà spazzata completamente via. Cioè, il mondo della televisione lo deve capire questo, che un domani, fra 15 anni, l'80% sarà internet e rimarrà la radio con un 15-20%, ma l'80% sarà totalmente in mano nostra, tra virgolette. No, sì. Perché i giovani da 15 se tu ti chiamavi anni, signor Netflix ti avrei dato ragione, però ancora no, ma, te l'auguro. Nicoletti, io ti dico una cosa, i ragazzi non l'accendono più la televisione. Guarda che io ho due figli, lo so bene, ma lo so più. Bene, ho un figlio di 22 anni che non, la televisione per lui non esiste più, no. Esiste solo le prese in giro della Clerici che dice fa la schiuma e non è sapone, questa cosa qui esiste. Molti oggi della televisione tentano di riciclarsi in internet, nel web, nel tubo, ma non sfondano con i ragazzi perché internet ha delle altre metodologie, cioè non puoi sfondare. E oggi se tu giri, e ti faccio un esempio, io sono molto più famoso con ragazzi di 15 anni che neanche un Fiorello. Fiorello non sanno neanche ma chi fatti, è. Fatti, ma Fiorello è invecchiato quando dice non fate vedere gli omicidi che la nonna sta male, già dimostra che ormai ha già scavalcato la linea d'ombra. E certo, ma resta chiaro. Fermo Lorenzo, purtroppo c'è ancora pubblicità, resta lì perché mi interessa anche avere la tua voce. Andiamo avanti ancora fra un istante, 800 24 00 24. Axerta, indaga, documenta, accerta. www.axerta.it vi presenta Melog, cronache meridiane. Siamo partiti l'analisi di Chico Mori, siamo andati avanti con Lambrenedetto, che è un famoso youtuber, sull'analisi di quello che sarà il futuro dell'intrattenimento. Passerà per la rete, ma questo non necessariamente, speriamo, dovrà comportare di avere un pubblico di persone che hanno una forte patologia sociale. Saremo molto più allegri, molto più divertiti, molto più autonomi nelle nostre scelte, avremo meno imperi incrollabili da dover sovvenzionare con il nostro canone, ma probabilmente avremo anche capacità di avere migliori relazioni tra di noi. Agostino, buongiorno. Buongiorno, ho sentito la trasmissione e ho pensato subito a mio figlio. È un Chico Mori suo figlio? Ma guardi, mio figlio è un ragazzo di 26 anni che però non è attaccato a Facebook, bensì ha giochi di ruolo che fa insieme ad altri ragazzi, no? Pare che ci siano proprio dei gruppi molto numerosi. Sì, ma è un'attività mica da censurare, può essere molto divertente. Sì, ma il problema è che lui sta chiuso nella sua stanza per ore e ore, anche a tarda notte, e magari viene solo per mangiare un attimino, poi scappa di nuovo nella stanza. Però ha una vita sociale, amici, esce ogni tanto, va a scuola, studia, lavora. Guarda, per fortuna, di amico ne ha uno solo, si vedono una volta ogni tanto. E fanno i giochi di ruolo. Per fortuna comunque, sì, esatto, ma un lavoro con il mio aiuto siamo riusciti a trovarglielo, che lo impegna alla mattina, e questo è stato un bene. Comunque abbiamo anche fatto un po' vedere dallo psicologo e ne è emerso che lui presenta un disturbo di Asperger. Vabbè, per quello che volevo chiedergli. Guardi, adesso non è una trasmissione medica, mi intendo di questa materia per un figlio autistico. La diagnosi di Asperger non la fa lo psicologo, la fa un neuropsichiatra, la porti a un centro specializzato, se è questo. Però non azzardo, non sono cose che mi riguardano in questo momento. È un po' grandino, perché se avesse avuto dei sintomi dello spettro autistico, ormai a 26 anni dovrebbe averne dato ampia dimostrazione. Però lo porti a un centro specializzato di neuropsichiatria e lo faccia semmai vedere. Ma ormai è grande, adulto, è un uomo, è un po' più difficile. Di solito queste cose vanno diagnosticate quando sono bambini. Però vorrei rientrare nel tema di questa trasmissione. Voglio sentire da Cristina, mamma dei ragazzi di Chico Mori, che abbiamo sentito all'inizio, come ne è uscita alla fine suo figlio? Perché la sua storia alla fine ha avuto un finale, confortante, perlomeno mi pare, no? Non è stata disperata. Sì, allora mio figlio è uscito, che quello che ho subito cercato di fare è di non aspettare che lui in qualche modo cambiasse atteggiamento. Io ho cercato di muovere le acque ogni giorno, ogni giorno ho cercato di invitarlo a nuove situazioni e poi soprattutto ho cercato di farmi aiutare. Ci hanno aiutati, ci ha aiutato un team di psicoterapeuti che ha preso in gestione tutta la famiglia, uno psicoterapeuta per ogni membro, cioè me, mio marito. Avete voluto esagerare? Abbiamo voluto esagerare, per il figlio si esagera. Quindi vi hanno detto che è colpa un po' di tutti voi, siete messi tu, non hanno lavorato tanto. Colpa, che comunque ognuno deve fare la sua parte. Il ragazzo oggi che vita fa, solo per capire, che vita fa? Ha una vita normale, meravigliosa, nel senso che ha degli amici. E come parla di questa esperienza passata? Completamente dimenticata, anzi negata, come se non... Vabbè, questa ci sembra un'ottima cosa. Allora, Marco Crepaldi, vediamo, stanno chiamando i Napalm 51, che poi sono gran parte del pubblico di Lorenzo, dicendo: non capirai mai che internet è il braccio operativo del capitalismo, sarà troppo tardi quando lo capirai, anche voi la smetterete di magnificarlo. Ecco, il catastrofismo, c'è un complotto, ci sono dietro i rettiliani, le scechimie che via dicendo, anche dietro gli hikikomori. Vediamo di riportarlo però in un termine più realistico, sempre dal tuo osservatorio, Marco. Sì, no, appunto, non, secondo me qua si rischia un po' di fare confusione con altri fenomeni. Ecco, io vorrei continuare a ribadire questo, che comunque il focus centrale tra gli hikikomori e altri fenomeni come per esempio i NEET, che sono quelli che non lavorano, non studiano, ma che magari mantengono comunque una vita normalissima, o magari le stesse persone che usano molto internet, YouTube... che si chiamano, i primi si chiamano fancazzisti, secondo si chiamano leoni da tastiera, li puoi chiamare come, ma non sono gli hikikomori. Puoi chiamare in molti modi. No, gli hikikomori, quello che distingue gli hikikomori da tutti gli altri fenomeni è che questi ragazzi non escono di casa, questo è fondamentale, ma è proprio la cosa che li differenzia dagli altri fenomeni. Quindi si possono sovrapporre i fenomeni, certo, un hikikomori può anche essere dipendente da internet, però non è detto che... Va bene, per oggi ci fermiamo. Solo Lorenzo, ti posso fare una richiesta? Perché non fai il tuo prossimo video per cercare di dare una mano agli hikikomori, ispirato da quello che abbiamo sentito stamattina? Sì, oggi ti farò un video, lo metterò parlando di questo discorso, anche se ti dico che il fenomeno hikikomori è, diciamo, è dipendenza da internet in Italia è facilissimo, perché è chiaro che se uno passa tutta la vita, tutta la giornata in una stanza ed è giovane, è chiaro che poi... Certo, non può certo stare lì a guardare le collezioni di farfalle, dice guarda la rete. Alla prossima, grazie a tutti.